Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Poco fa un tweet, grande notizia, punto esclamativo, così il vicepresidente della Commissione Europea, Jyrki Katainen, ha accolto l'annuncio dell'Italia, che ha comunicato appunto che contribuirà con 8 miliardi di euro al piano Juncker, unendosi così a Germania, Spagna, Francia. Grazie mille, così su Twitter dunque Katainen. Poco prima il Consiglio Ecofin aveva approvato il quadro generale sullo sfondo appunto degli investimenti del cosiddetto EFSI, cioè il piano Juncker. Da qui si parte, ma nello stesso tempo ci sono ancora invece dei conti in sospeso che riguardano l'Italia e le procedure di infrazione. Sentiamo quali sono in questo servizio. Anno nuovo, questioni sempre aperte. Erano 119 a ottobre scorso le procedure aperte da Bruxelles nei confronti dell'Italia. Oggi siamo a 91, in calo certo, ma comunque un conto salato che potrebbe arrivare a 140 milioni di euro nel 2015. Si tratta di violazioni del diritto comunitario e mancato recepimento di direttive europee. In prima fila la multa per gli aiuti sulle assunzioni, oltre 16 milioni che potrebbero arrivare a 30. Si tratta degli aiuti legati alla legge Treu del 97. Che lo Stato avrebbe dovuto recuperare in quanto utilizzati per rendere a tempo indeterminato posti di lavoro già esistenti. E poi la multa per le discariche fuori legge, 40 milioni inflitti lo scorso dicembre per una questione che si trascina dal 2007, quando la Corte di Giustizia le dichiarò illegali. L'Europa ha bocciato 218 siti localizzati in 18 regioni, soprattutto perché privi di autorizzazione. Per ogni semestre che passerà dalla sentenza fino alla messa in regola si aggiungeranno penalizzazioni fino a un massimo di 42,8 milioni. A fine anno il ministro dell'Ambiente Galletti disse che la situazione era cambiata, che l'Italia si stava mettendo in regola e che nella legge di stabilità è previsto un fondo per bonificare le discariche illegali. Ho già sollecitato per il tramite della rappresentanza d'Italia presso l'Unione Europea l'avvio di un confronto con la Commissione per concordare le modalità di esecuzione della sentenza. Inoltre, con il coordinamento del Dipartimento per le politiche europee del mio dicastero, in collaborazione con le regioni interessate, sta predisponendo un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività di bonifica per i siti oggetto di contestazione. Giovedì Galletti sarà a Bruxelles per incontrare il commissario europeo all'ambiente e fare il punto sulla situazione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Confindustria ha presentato alla Commissione europea una denuncia contro l'applicazione del reverse charge, l'inversione contabile dell'IVA alla grande distribuzione organizzata. La misura, introdotta con legge di stabilità 2015, non è ancora operativa ed è al vaglio degli organi comunitari. Il meccanismo consiste nell'eliminazione della detrazione dell'IVA sugli acquisti, cioè l'IVA non verrà più versata nelle casse del fornitore e l'imposta verrà gestita solo da un soggetto che dovrà essere poi rimborsato dallo Stato. Insomma, visti i tempi lunghi per Confindustria, tutto questo avrà un effetto devastante sulla liquidità delle imprese. Allora, a spiegarci pro e contro di questa norma è Riccardo Ubaldini, commercialista e partner dello studio legale Bonelli Erede Pappalardo, intervistato da Livia Zancaner. C'è un grosso vantaggio e un grosso svantaggio. Il vantaggio è che si evitano alla radice problemi di evasione da riscossione da IVA, che hanno assunto negli ultimi anni delle dimensioni importanti. Perché l'IVA non viene versata e non rimane nella disponibilità del fornitore, ma viene versata di fatto, viene gestita di fatto dal soggetto cliente, quindi si evitano questi fenomeni evasivi. Dall'altro però il soggetto che prima addebitava IVA, il soggetto fornitore, aveva un IVA a debito che compensava con l'IVA a credito, cioè l'IVA che pagava sulle proprie fatture passive. Invece questo credito dell'impresa fornitrice rimane senza possibilità di compensazione, perché l'IVA viene gestita soltanto dall'altro soggetto. Quindi si crea un problema di immobilizzo finanziario, già segnalato negli scorsi mesi da diversi soggetti anche istituzionali, che è un indubbio svantaggio, diciamo così, problema del nuovo sistema. Pietro La Corte in regia, Gigi Donelli al microfono, Europa 24 torna domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.